Allora, l'arena è, come abbiamo detto, in disuso da un po' di anni. Noi l'abbiamo già, ovviamente abbiamo fatto diversi sopralluoghi. La scommessa è quella di ripristinare l'arena e quindi di riportarla alle condizioni per poter essere poi allestita per farci concerti o comunque in genere spettacoli. Quindi hanno fatto tutta una serie di opere infrastrutturali, a partire dalle fognature, dallo scarico dell'acqua, dell'impianto elettrico, dello scarico e carico dell'acqua corrente per rifornire bar, eccetera. Quindi hanno fatto tutte le opere necessarie per ripristinare l'area e far sì che poi possa ospitare i concerti. Una volta fatto quello, allisteremo l'arena con il palco, con i bagni chimici, anzi noi vorremmo fare anche bagni veri per dare un'esperienza al pubblico migliore. Poi ci saranno i bar, c'è la birra, insomma sarà tutto quello che normalmente si trova un concerto. Noi vorremmo farlo un po' più bello rispetto a quello che normalmente troviamo, quindi con cibo buono, di qualità, birra di qualità, un occhio al verde. Aspettiamo solo il buon salire qua. A proposito di occhio al verde, appunto, si è parlato in conferenza stampa di questa nuova iniziativa per la riduzione al minimo della plastica monouso e dell'uso di, diciamo, piatti e posate completamente compostabili. Com'è nata, diciamo, ce ne parla un po', come si è sviluppata? L'occhio all'ambiente da sempre è la nostra caratteristica. Negli ultimi anni qualche artista ha tentato di farlo e l'ha fatto tramite iniziative varie, e noi abbiamo pensato che anche il mondo della musica, noi, nel nostro piccolo, sarebbe stato necessario aiutare l'ecosistema, aiutare il nostro pianeta, e quindi la prima idea, anche quella più semplice, ma insomma intanto partiamo da quella, è quella di abolire la plastica monouso attraverso l'utilizzo dei bicchieri riciclabili, o meglio riutilizzabili, perché le persone al primo acquisto prenderanno il bicchiere, lo pagheranno 2 euro, diventerà di loro proprietà, quindi se lo potranno portare via. Ad ogni utilizzo però il bicchiere potranno restituirlo e farsene dare uno pulito, nel quale poi gli verrà somministrata la bevanda che hanno richiesto, oppure potranno addirittura restituirlo e ottenere in cambio un gettone se non si vogliono tenere sempre il bicchiere in tasca, e poi attraverso il gettone riprendere il bicchiere al momento dell'utilizzo. In questo modo niente plastica monouso, e i piatti, i bicchieri, le posate saranno tutte compostabili, per cercare di ridurre al minimo, non di eliminare, ma di ridurre al minimo, almeno da questo punto di vista, l'impatto sull'ecosistema. E in ultima battuta, la line up musicale è molto varia e si sviluppa su vari generi, dal metal al rap all'indie. State cercando, diciamo, di coinvolgere più pubblico possibile e farlo anche magari interagire fra di loro? Assolutamente sì, perché Parco Nord deve essere prima di tutto uno spazio in cui i giovani o comunque le persone trascorrono del tempo, quindi socializzano, fanno amicizia, si divertono, si riposano, si rilassano e ascoltano musica. Ma la musica non deve essere l'unica cosa, deve essere un grande spazio, non un social network, una piazza vera, ecco, in cui incontrarsi. E quindi la musica ne fa da contorno, fa da ultima esperienza. L'ultima cosa che c'è alla fine della giornata è il concerto dell'headliner, se si tratta di un festival, dell'artista principale, se si tratta di un concerto singolo. Quindi tanti artisti diversi per andare a coprire tutti i generi musicali.